Welcome Theater, un servizio online di cui ne parliamo con Stefano. Ci sei, Stefano? Sì, ci sono. Oh, ciao, benvenuto a Radio Teatro Sonda Rossa. Grazie mille, buonasera a tutti. Allora, mi incuriosiva parecchio, allora ho detto perché non parlarne proprio con loro direttamente, e così facciamo. Allora, raccontaci un po' di cosa si tratta. Allora, Welcome Theater è una piattaforma online, quindi un sito web, dispositivi mobile, insomma quanto di ormai tecnologico ci deve essere ormai in una qualsiasi applicazione si propone al pubblico, e che in qualche modo coinvolge il mondo del teatro, che come sappiamo tutti purtroppo in Italia in questo periodo non è particolarmente brillante per diversi motivi che non siamo qui ad analizzare. E noi quindi abbiamo, siccome due dei tre founder di questa startup sono autori, tra cui io che di solito scrivo per il teatro, e l'altro è un altro founder, da un po' di anni abbiamo vissuto la realtà teatrale, ne abbiamo viste diverse pecche, e quindi a un certo punto abbiamo detto perché non dire la nostra e cercare di migliorarlo, e quindi abbiamo pensato ad una startup che potesse proporre agli autori e alle produzioni, agli operatori di teatro, la possibilità di mettere i video dei propri spettacoli su una piattaforma online, in modo che noi ci potessimo proporre come una distribuzione online e come una sorta di teatro virtuale. Una sorta di agenda. Più che una sorta di agenda, direi proprio più una sorta di cartellone virtuale di un teatro. Okay. Con un catalogo di opere, con i vari generi, come accade in un qualsiasi cartellone teatrale, e dare la possibilità alla gente di scegliere attraverso un catalogo di trailer, liberamente, quindi senza pagare alcunché, e dopodiché, come avviene spesso per i trailer cinematografici, per capirci, uno vede lo spettacolo che più lo aggrada e sceglie di comprarlo se ovviamente è stato pubblicato il video completo. Si paga un piccolo biglietto, sempre tutto tramite virtuale, quindi carta di credito, e si può godere lo spettacolo. Un modo nuovo di vedere il teatro che andiamo a vedere tutti i giorni. Senti, no, stavo pensando rispetto per esempio allo strumento radiofonico, che spesso funziona proprio rispetto agli spettacoli come un elemento che invoglia il pubblico ad andare a vedere lo spettacolo, e vedere invece le immagini dello spettacolo non può essere penalizzante rispetto al pubblico? In realtà noi pensiamo, e per fortuna tutti gli autori o operatori del teatro che abbiamo sentito prima di avviare questo progetto, in realtà invece pensano possa essere un modo di rilanciare il teatro, perché io sinceramente penso una cosa: è vero che il teatro è sempre stato ostile a diverse forme tecnologiche che potessero innovare la fruizione, però credo anche che siamo in un momento in cui, tra virgolette, non abbiamo niente da perdere, passami il termine, e quindi credo che vedere il teatro, che sia con un trailer, che sia con un video, è sicuramente molto importante per poterlo rilanciare, perché per me siamo in un momento in cui l'importante è che la gente senta parlare di teatro e veda il teatro in qualsiasi forma. Mm-hmm. Io sono il primo che ho visto opere attraverso dei canali televisivi che noi sappiamo che offrono a volte la possibilità di vedere teatro in TV, e ho scelto poi di andarla a vedere in scena, perché a volte purtroppo sappiamo che la cultura chiama cultura. Se io non conosco un settore, non mi incuriosisco, e quindi poi non vado a vederlo, nel caso del teatro, neanche nei teatri. Quindi noi siamo abbastanza convinti che possa essere un modo di rilanciare il teatro e di agevolare l'arte teatrale, e questo infatti lo facciamo anche perché diamo la possibilità a chiunque voglia ad esempio mettere solamente il trailer sulla nostra piattaforma a scopo pubblicitario, noi gli diamo la possibilità di farlo assolutamente in modo gratuito, in modo tale che lui possa pubblicizzare il proprio spettacolo. Quindi noi, laddove possibile, cerchiamo di agevolare il lavoro degli autori, delle produzioni e di tutti quegli operatori che sappiamo che faticano molto per andare in scena. Ho capito, quindi la scelta sta proprio agli autori stessi dei lavori. Sì, certamente. Senti, da quanto siete operativi? La nostra piattaforma è online dal 27 marzo, che come sai è la giornata mondiale del teatro, abbiamo scelto questa data significativa. Senti, quanti lavori adesso avete a disposizione in catalogo per il momento? Abbiamo attualmente in catalogo una settantina di opere. Ok. A questo punto ci dai riferimenti web per saperne di più? Certamente, se volete potete andare su www.welcometheater.com. Se ci cercate vedrete che sicuramente usciranno anche la nostra pagina Facebook, i nostri canali social e sicuramente anche il sito. E per riconoscerlo è molto facile, vedrete semplicemente una home page con un elenco con una serie di sezioni dedicate appunto ai trailer delle opere, quindi non potete sbagliarvi. Benissimo. Allora io ti ringrazio, magari ci si sentirà prossimamente. Lo spero. Ciao Stefano. Ciao e buon proseguimento. Grazie, ciao. Ciao.